la nostra libertade il fregio antico. Scaccia dal volto ergida l'infortuno pallor. Richiama il riso sulle timide labbra. Io stesso vidi dall'alte mura l'inimico fuggir. Ciò non basta per l'afflitto mio cor. Di padre amato consolami, concedimi di arco e l'amor mio. Ma del suo affetto assicurarti puoi, non mi dicesti che tu arriva al turisme. Turisme e donna mia. Preci del popolo fedele, unsero al cielo. nostra difesa tutte pugnare le intelligenze eterne. Non fu solo Learco distruttor dei nemici, anch'io Dorisbe nel cimento pugnai, fui compagno al trionfo e vinsi anch'io. Ma non hai di Learco le più belle virtù? Di che gli affetti tuoi lo distinguon così? Sì, ciò che voi audace. Sì, bel giorno, chetati Argeno. In van lo speri. Audace, vuoi pure star con tue foglie la pace? Lo cerco da un'ingrata per cui piango e sospiro il mio riposo. Da Learco pretendo più rispetto al mio grado. E il genitore più pietoso vorrei un figlio al cuore. In Learco rispetta il povero fattor, del padre in faccia modere il troppo ardir. Serva il tributo dal cuor del figlio al genitor dovuto. Taccia per lor lo sdegno, a miglior tempo vendicarmi saprò. De chi di noi provò nel seno amore, compatisca e trasporti al mio dolore. Thank you. sa che cosa è amar senza speranza in sé, senza speranza in sé, gli affetti con la morte il mio dolor saprà. Chissà che cosa è amar gli affetti con dolor. Le schiere spaventate, confuse, volsero a noi le spalle. I nostri brandi le giunsero però pagar col sangue gli ostinati l'ardir. Ma fu da noi, dicasi al nostro vanto, sparmiate il sangue a chi versava il pianto. Figlio di attento al fonte, io che affronti il sole, lieve tipo di giù trattar. Voi me seguite, l'invisibile destro fuggi sconfitto al lento. Andiamo, amici, a ringraziar nel tempio. Ahimè, quel fier contrasto d'amore e gelosia, fossa almeno solo le armo. Si veste, si confuse, perché? Perfido, ingrato, come tosto dovesse allo sguardo rivolto, come tosto mirò di agilità in volto. Possibile ch'io deggia nel dì del mio trionfo, perete vivere in pene. E con l'oggetto che saprò consolarti, il libriarco troverai la tua pace. Dergilda, idolo mio, tacchita, audace. Non mi parlar d'amore, Abbi pietà di me. Ah, in te non vedo il mio fido leardo. O tei che dici, sì cara ti consola, che regni nel mio cuore. Ah, non già sola. Non tormentarmi più. Sai qual destino per mia sventura eterna mi condanni a soffrir doppi legami. Non puoi taci se m'ami. Oddio, che pena questa, che pena questa, che barbaro tormento, che barbaro tormento. E se no, oddio, oddio, mi sento Thank you. più di questa, né questa più di quella, rassembra gli occhi miei, vezzosa e bella. Sperarne ambe non lice, lasciarne una non posso. Ah, vuol fortuna ch'io la m'interrompe, non esperi alcuna. cenni tuoi. Dunque m'ascolta, tu che straniero e gnomo, e benché fossi ancor di reggio sangue, sai che le nostre leggi vogliono sol del nostro sangue regi, ma spesso varia rice a seconda dei cani, anche i decreti. Or prevale l'affetto a un tal diritto, pur che regni l'arco, ognun rinunzierà. Questo sol chiede il popolo da te. Sai che Regina è mia figlia, e già sol basta per visia di te degna. Io ti assicuro, sangue il nostro indorisse. O questa, o quella, scegliere tu devi al trono. Queste del popolo tuo le leggi sono. Oimè, che punto è questo? Io sceglie, e come mai? Le adoro entrambe, impossibile ciò fia. Ma sai che entrambe non lice mar, le perdi tutte due se lo scegli. Ah, per pietade, restino in libertà gli affetti miei. S'una di queste due mi costa il soglio, cedo lo scettro e più regnar non voglio. Torna in te stesso, sì, mi lusingo di vederti cangiato, di mirar la tua pace in altro stato. Thank you. tuo sarò mai sempre scherzo di mia fortuna. Togliesi dal piede le catene per raddoppiarle al cuore. Non ti bastava i tre lustri desidio. Oggi che torno degli avi miei sul soglio, oggi che rudele mi tormenti così. Perché da morte mi salvasti? Perché, perché, barbara sorte? Sembrami che il sonno prometta l'alma mia. Qualche tregua fugace al suo dolore. L'amor mio, amico, alle tue mani fido la mia vendetta. Ah, che dal cuore sento rimproverarmi un tradimento. Ma se cielo d'Orisbe la mano che lo svelò, mi rendo poi meno orribile oggetto agli occhi suoi. Che intesi, chi ascoltai? Fermati, lascia! Lumi, Ergilda, Dorispe! Un nemico, un fellone, ti provò di ferire, vuole a tua morte! Che accaduto saresti, se a tempo non giungea? Ferir dovevi, serio ogni pie più tardo! Mira l'arco crudele, osserva il dardo! Ad entrambi leggio dunque la vita! Da morte io ti sottrassi, io ti salvai, mi salvai. contrasto alla mia fede. Ma non sono io, Learco, quella che tu dicesti, più ben tua vita. Non sono io pure, e tanto gli occhi tuoi parve vezzosa e bella. Sei quella. Crude, dunque non sono più la speranza tua, non ti sovviene la fede, i giuramenti, i sospiri, gli accenti, con cui tu ti impegnai per te gli affetti miei, quella più non sono io. Sì, quella sei. Non mi lontano di voi.